La cicogna nera. E apriamo una nuova puntata dei suoni dal mondo della cicogna nera quando sono le 21:03. Questa sera lo facciamo con un paese dove il concetto di musica si chiama AK, A e K, due semplici sillabe unite che identificano non solo il concetto di musica nell'insieme, ma anche di danza e di teatro. Un vocabolo unico per tutte queste arti che sono alla base di tutti i teatri tradizionali estasiatici e naturalmente anche del paese dove dedichiamo, a cui dedichiamo la prima parte della cicogna nera, ossia la Corea. Se volete chiamarci in diretta, oppure scriveteci a lacicognanera@ondarossa.info sul sito della radio www.ondarossa.info/trx/lacicognanera. Trovate anche la maggior parte delle puntate che sono andate in onda, dunque se vi piace la nostra musica potete sempre riascoltarla sul sito della radio. Quello che avete sentito, il brano che avete sentito, si chiama Aya Yang Sanjo, e Laia Yang o Ayaeng, non so l'esatta pronuncia, è una cetra. Le cetre sono degli strumenti a corde che sono, soprattutto per quanto riguarda l'Asia orientale, sicuramente gli strumenti più rappresentativi. Abbiamo lo zeng in Cina, abbiamo il koto in Giappone, e qui in Corea c'è uno strumento che si chiama il kayagyum. Sempre la pronuncia sarà estremamente sbagliata questa sera. Comunque il kayagyum è una cetra da tavola coreana, pizzicata, mentre quello che abbiamo sentito è proprio rappresentativo della cultura coreana e si chiama Ayaeng, come vi ho già detto, ed è particolare perché si suona a sfregamento, dunque un cordofono suonato a sfregamento, e a differenza sicuramente del Giappone non ne ha, e penso neanche la Cina abbia insomma questi strumenti così sfregati. E il sanjo invece, che è l'altro vocabolo che trovate in questa canzone, sta ad indicare un repertorio per strumento. Come avete sentito, c'era semplicemente lo strumento melodico, la cetra da tavola, e c'era il tamburo, che in questo caso si chiama il chang, se mi ricordo bene. Vado un attimo a controllare, ecco, non lo trovo. Comunque quasi sicuramente si dovrebbe chiamare chang, che è praticamente un tamburo a cilindro, non mi viene il termine, sì, un tamburo a cilindro ma particolare, nel senso a clessidra, ecco come si chiamano, che sono stretti in mezzo, praticamente raffigurano, no, la forma di una clessidra, e che sono estremamente usati in parecchia musica coreana. Il sanjo è un genere, come vi dicevo, che arriva dalla musica folclorica, dal genere così, dal macro genere di musica folclorica, che prende un po' a prestito musiche all'interno del proprio paese, anche musiche occidentali, diciamo così, di retaggio occidentali. E si, questo sanjo, questa parola qui, significa melodie disperse. Il tamburo, vi confermo che si chiama chango con 2G, e questa musica si usa praticamente su diversi cicli ritmici che si vanno un po' dal più lento al più veloce. Tutte queste informazioni e la prima parte, questi primi brani che saremo a sentire, li sto prendendo da un libro che si chiama Musica e tradizione in Asia orientale, e il sottotitolo è Gli scenari contemporanei di Cina, Corea e Giappone, di Daniele Sestili. Io personalmente non lo conosco, ma per chi vuole un po' approfondire l'estremo oriente, è un libro abbastanza pratico, sicuramente molto ben fatto, con degli esempi come quelli che vi sto proponendo stasera. E lui, se non mi sbaglio, dovrebbe insegnare etnomusicologia alla facoltà di lingue orientali della Sapienza. Allora, il sanjo deriva probabilmente da un genere di musica religiosa, sciamanica, anzi, mi verrebbe da dire, che si chiama Sinawi, e che ce l'andiamo ad ascoltare con un brano proprio dallo stesso titolo, che porta il titolo di questo insomma genere, il Sinawi. Thank you. Questo brano continuerebbe per molto tempo, ma dobbiamo rientrare. Qui avete sentito un bel po' di strumenti in questo Sinawi, che è questo genere strumentale, come vi ho anticipato, che è nato nel sud-ovest della Corea e in principio era usato nei riti sciamanici, nello sciamanesimo coreano, che si chiama Mu in lingua, e che fa utilizzo di musica nei suoi rituali dal nome Kut. Chi lo suona sono dei professionisti in questo caso, e avete sentito ad esempio in questo brano l'oboe che si chiama Piri, un flauto traverso, il tegum, una viella, haegum, e poi le cetre, la cetra di prima che abbiamo ascoltato in apertura, la yaeng a sfregamento, oppure altre che si chiamano komyungo o kayagum. E proprio in chiusura di brano avete forse qualcuno accolto la differenza rispetto al primo brano, c'era questa cetra, no, che lui la pizzicava, e quello era il komyungo. E poi infine avete sentito uno dei timbri diciamo di fiati più interessanti, più rappresentativi della Corea, che è quello del flauto traverso taegyum, che ritroveremo presto, e tutte queste sfumature microtonali, dinamiche, l'utilizzo del rumore, sono tutte hanno tutto insomma ruolo preponderante in tutta l'estetica della musica coreana, ma non solo, in tutta la musica dell'estremo oriente. E come magari noi abbiamo sviluppato ossessivamente l'armonia in passato, o l'estetica latina o africana è basata tutta sulle percussioni, ancora Medio Oriente e India fondano insomma tutta la loro musica classica sullo sviluppo melodico, qui in Estremo Oriente si è molto andato a ricercare lo sviluppo, l'improvvisazione, l'approfondimento delle variazioni timbriche proprio sui microtoni, sull'emissione del fiato, e proprio questo rappresenta insomma la direzione, almeno quella classica, fino a quando non è stata contaminata insomma dalle musiche occidentali, che ad esempio in Corea, Seoul, come in Giappone, ha trovato e trova largo spazio tutti i generi del rock e affini. E questa pratica, insieme alla pratica eterofonica, che forse qui non avete sentito, qui c'era una polifonia alla fine, no? Diversi strumenti che sorreggevano l'improvvisazione collettiva, invece è abbastanza presente anche nella pratica appunto dell'estremo oriente l'eterofonia, cioè tutte le voci cambiano melodia allo stesso momento, suonando insomma le caratteristiche più consone all'idioma del proprio strumento. Ora andiamo ad ascoltare un'altra canzone che fa sempre parte del repertorio folclorico ed è un repertorio vocale, un repertorio che è forse il più sviluppato in tutta l'Asia orientale. Canto del girovagare per le montagne, il titolo di questa canzone in lingua Yuzan apostrofo ga, ed è un cosiddetto chapka, ossia un canto popolare tipico che viene eseguito dai professionisti. Questa che era, che avete sentito, era una professionista, e perché hanno una forma un po' rispetto proprio al canto popolare, quello grezzo, insomma, quello che si suona per stare in compagnia dal popolo. Questa ha una forma un po' meno libera, un po' più difficile da interpretare, e lo stile invece si chiama Kyongji con due G, fa parte dell'area di Seoul e rappresenta un po' un bene culturale, leggo qui, uno stile che è stato designato bene culturale intangibile nazionale. Addirittura, ecco, l'accompagnamento è sempre quello del chang, questo tamburo di cui vi ho parlato prima, e la voce era una voce femminile che ha interpretato questo brano con il vibrato, con il profilo melodico tipico proprio dell'estetica, diciamo così, coreana, quello di questo cantato largo e irregolare, di questo vibrato che fa parte proprio della tradizione folclorica della Corea Democratica del Sud, di cui stiamo parlando molto, di cui abbiamo fino ad ora ascoltato le canzoni, perché nel nord, come sapete, c'è tutta un'altra storia. Kim secondo Sung nel 50-51 ha un po', con i suoi discorsi con gli scrittori e gli artisti, ha un po' compromesso la continuità dei generi di corte, e tutta la Corea del Nord si è un po' affidata alla musica classica, che occidentale ha sviluppato parecchio questa direzione qui, che è arrivata dalle scuole russe, ad esempio, ed è probabilmente tutt'oggi dedicata, riservata alle classi aristocratiche. E dunque andiamo ad ascoltare un'altra canzone, un altro brano, riprendiamo il fiato che abbiamo ascoltato prima, il Taegyum. Questa canzone che vi propongo ora si chiamerebbe Chong Song Gok, oppure nota anche come Chong Song Chain Anip, ed è proprio un assolo di questo Taegyum. Bye. questo non apparteneva invece al repertorio folclorico che si chiama Minson, o anzi scusate, Minsok Yumak, che include il canto popolare Minjo. Questo faceva parte invece uno dei più conosciuti, delle più conosciute melodie aristocratiche note sotto la targhetta, diciamo così, di Chongak, insieme alla tradizione confuciana Lahak. Lahak è la parola che vi dicevo in apertura per indicare il concetto di musica e danza inscindibili, e si aggiunge una A e si intende un po' la musica di corte, la musica elegante, la traduzione è proprio questa, musica giusta, musica elegante, Lahak. Tutte queste musiche sono state classificate in Corea come proprie musiche, dunque musiche nazionali, e sotto un termine che va nel nome di Kugak. Tutte queste, però, in realtà, nella Corea del Sud, di cui stiamo ascoltando alcuni brani questa sera, la maggior parte della musica è quella che si ascolta, che ascoltano grandi e soprattutto giovani, quella di, se non proprio occidentale, di retaggio occidentale. Questo che avete ascoltato era il flauto traverso, molto, insomma, molto rappresentativo nella cultura della musica nazionale della Corea del Sud, ed è particolare nel senso che è un flauto che è dotato di mirliton. Il mirliton è questa sorta di membrana che dà questo suono ronzante, il rumore, da questa sorta di rumore che accompagna tutta l'esecuzione. Il rumore è molto importante nella musica est orientale, proprio no? È allo stesso livello, ha la stessa importanza del momento del suono ha il momento del rumore. E per quanto riguarda invece precisamente l'emissione di questo strumento, questo ci dà un po' l'idea di come si è sviluppata diversamente in quest'area l'approccio alla musica. Ad esempio, questo è uno strumento per certi versi arcaico. Io non so quante chiavi abbia, però molte delle melodie dell'Asia orientale si basano su scale pentatoniche e comunque sono praticamente sempre, forse ultimamente no, però spesso sono degli strumenti privi di chiavi, le chiavi che poi noi occidentali abbiamo adottato sul, ad esempio sul sassofono, sul clarinetto, quelle chiavi che ci consentono in un fiato di raggiungere praticamente tutti i semitoni, tutte le altezze precise. Invece qui in Asia orientale c'è stato un approccio diverso, non è proprio per arcaicità che si è voluto rinunciare a questa situazione, è piuttosto una scelta non mediata, una scelta culturale, perché così facendo, con questo grande range di imboccatura, diciamo, e senza tante chiavi, c'è proprio un controllo diretto dell'emissione del suono, c'è un controllo di sfumature, come vi dicevo, no? Timbriche, di variazioni proprio microtonali, di dinamiche assolutamente, insomma, non al di fuori del nostro sapere, della nostra idea comune all'interno della musica. E poi oggi in alcuni casi, tipo l'organo a bocca della Cina, si sono adottate queste chiavi e si dicono strumenti avanzati, ecco, non mi ricordo se si dicono proprio così, strumenti avanzati, comunque per identificare e differenziare proprio la differenza con questi strumenti che danno la massima libertà di approccio soprattutto al timbro e alla dinamica dello strumento. Questo qui è probabilmente quello che per suono, dinamica, così si avvicina un po' di più a uno strumento bellissimo, proprio acido, penetrante, che vi ho passato un po' di tempo fa e che è il flauto rappresentativo invece della cultura giapponese. La differenza rispetto al coreano è che non ha il mirliton, dunque non c'è questa sorta di membrana che dà questo ronzio. Forse l'approccio, ecco, è un po' più pulito, quello giapponese. Anche la stessa esecuzione delle musiche tende un po' a ripetere perfettamente la tradizione, mentre ad esempio in Cina, in Corea si usa fare degli arrangiamenti così, anche nella musica folclorica, di variare un po'. In Giappone si è un po' più puliti, e lo shakuhachi è questo flauto diritto con un'imboccatura a tacca che ha veramente un suono splendido. Yeah. Chica Notone, il titolo di questo brano, e che significa? Lo vado a cercare un attimo. Bramiti distanti di cervi. Molto interessante. E praticamente è un richiamo che i maschi e le femmine di cervo si scambiano in autunno. Quello che avete sentito era e lo shakuhachi, anzi, ed è proprio, rappresenta un po' in modo paradigmatico proprio l'idioma, l'emissione di questo strumento, il linguaggio che fa uscire fuori. Ad esempio, avete sentito proprio il soffio, l'emissione violenta del soffio e anche l'emissione proprio così tutta piena che genera questo suono ad altezza indefinita che si chiama Muraiki. E dunque, 21:37 per quest'ultima parte di trasmissione, cambiamo completamente genere. Però forse andiamo a proseguire su quello strumento che in qualche modo, diciamo per versatilità timbrica, può essere un parente molto lontano del tageum che abbiamo sentito in Corea piuttosto che dello shakuhachi qui in Giappone. Ossia, parliamo del clarinetto che è usato naturalmente in tutto il repertorio classico, ma anche in una musica che proprio occidentalissima non è e che farà parte, ci farà compagnia in questa seconda parte della cicogna, ossia il klezmer, ossia l'unione del klei e zemer, no? L'unione di strumento di canto, di strumento di musica. E apriamo con 1, 2, 3, vi faccio sentire tre tra i suoi più grandi compositori e artisti. E il primo è un compositore americano vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, uno dei suoi più grandi, insomma, che ha fatto un sacco di canzoni che poi sono state, vengono riprese tuttora. Si chiama Naftul Brand Vein. Se lo ascoltiamo con una canzone molto famosa, Acer Bulgar. Thank you. Naftul Brandvein, questo è uno dei brani che si ascoltano ancora oggi in tutte le orchestre di strada, in molte orchestre anche qui a Roma. E lui che è nato in Ucraina, poi è emigrato negli Stati Uniti e l'Ucraina insieme a tutta la parte della Russia europea, alla Polonia, ai Balcani, sono proprio la zona dove c'erano le comunità ebraiche al cui interno è nata proprio questa musica di festa, da ballo, di accompagnamento ai matrimoni, ma anche, perché no, ai funerali, a tutta la vita quotidiana. Una musica che in principio, diciamo, ha avuto come strumento principe il violino, poi si è aggiunto insomma il clarinetto, che si è fatto strada, si è preso proprio tanta importanza e tanto repertorio che è stato codificato insomma da dei grandi, di cui sicuramente Naftul ne rappresenta uno. Ancora negli Stati Uniti, dove c'è un'altra strumentista molto molto brava tecnicamente, che si chiama Margot Leverett, e ha tentato un po' una fusione. Lei fa parte di quella corrente che si chiama il Klezmer Revival e ha fondato un gruppo che si chiama, anzi forse non l'ha fondato lei, però si chiamano i Klezmer Mountain Boys, e fanno questa fusione di klezmer con il bluegrass degli Appalachi, quindi due mondi un po', in principio, almeno al primo ascolto, abbastanza distante, ma in realtà non è così. Il violino delle melodie del klezmer di prima della guerra dell'Est Europa si tentano di diffondersi con i violini di Bill Monroe, e questo medley, insomma, questo medley sonoro è molto molto interessante. L'album da cui vi proponiamo una canzone questa sera, anzi ho sbagliato tutto, perché in scaletta vi faccio ascoltare prima un suo pezzo solistico, quindi non è con i Klezmer Mountain Boys, è un album del 2000, e anche questa è una canzone molto lenta ma molto molto profonda, si chiama Leading the In-Laws Home. Thank you. adesso invece è finalmente ora dei Kletzer Mountain Boys, sempre con Margot Leverett. In fa maggiore è il titolo di questa canzone. Invece ora andiamo ad ascoltare un altro grandissimo, al pari di Naftul, anche lui denominato così il re del klezmer. Però lui nasce in Argentina e, se non mi ricordo male, dovrebbe vivere dalle parti della Germania ora. E lo ascoltiamo, Yiddish Soul, Let's Be Happy, è il titolo di questo breve frammento, poco più di un minuto. un suono particolarissimo, quello di Joyra Fademan, suono che lo contraddistingue dagli altri grandi professionisti del clarinetto in generale e del klezmer anche in particolare. Forse questa sua particolarità, questo suo approccio di suonare lo strumento è anche dovuto al fatto che, a differenza di praticamente la totalità dei professionisti, invece di usare bocchini in ebanite, praticamente in ebano, che è il legno con cui solitamente si costruisce il clarinetto, lui usa un bocchino in cristallo. La marca è Pomarico, che è costruita proprio qui in Italia, e lui è proprio riesce a dare questa particolare direzione al klezmer, lui che ha fatto anche, così per ricordarci un po', le musiche di Schindler's List. E sono le 21:53, forse abbiamo lo spazio per 2-3 brani. Innanzitutto andiamo a presentare un'ultima novità, uscita pochi mesi fa, si chiama Kosher Nostra e il sottotitolo è The Jewish Gangster Greatest Hits, ossia praticamente le grandi grit dei gangster ebrei. E perché c'erano e come negli anni 20-30 c'erano questi gangster di discendenza ebraica che popolavano insomma Chicago piuttosto che New York e che facevano affari prolifici soprattutto anche con la mafia nostra, insomma, anche questo è il Kosher Nostra. È stato un progetto possibile grazie al folletto tedesco Chantel e a Hotz Halmog. La prima canzone che ci ascoltiamo sicuramente, ma sicuramente l'avete già sentita. Desert shadows creep across purple sand. Natives kneel in prayer by their caravan. They're silhouetted under an eastern star. I see my long lost blossom of Shalimar. There's a loo of the moon and the sun, there is one. All temple bells are calling across the sand. We'll find our kismet answering love's command. Ah, you, Miss Aloo, are a dream of delight in the night. Are to an oasis sprinkled by stars above. Heaven will guide us, Allah will bless our love. A que deje embelezado mi corazón. You, Pulp Fiction è il referente che vi ha fatto conoscere questa canzone. Qui l'interprete è Chubby Checker, tal Chubby Checker. In realtà non so se sia ebreo. È una canzone, è una compilation, anzi, di gangsta ebrea, però la maggior parte degli interpreti penso che non sia ebrea. Però la canzone sì, la canzone arriva praticamente da è una canzone folk che arriva da una comunità ebrea dell'Asia Minore e poi è stata portata, insomma, qui è stata reinterpretata negli Stati Uniti, è stata portata al successo da Pulp Fiction e interpretata in quel caso da Dick Dale. Ancora un'altra canzone, anche questa probabilmente qualcuno l'ha sentita, soprattutto per chi è appassionato di musiche dell'est, di musiche balcaniche. Si chiama Black But Sweet, anzi mi sono dimenticato di dirvi il titolo della canzone di prima, che è Miser Low. Black and homely and that is all. She's black and homely and that is all. When men meet her, they bound to fall and tell her, mammy girl, you're sweet, oh Lord. Go to Chabonas and you will see a nice black woman they call Didi. When she pressed her sweet lips to mine, I said, mammy kiss papi all the time. Funny with her to part. The people in the county of Caroni can tell how Didi love Houdini. Young boys, take this advice from me. Don't put yourself in difficulty, for it is a positive fact. The sweetest women in this world are black. Baby, you are bound to stay. You cannot leave her and go away. I say, Didi, I'm going away, but no longer I cannot stay. Mommy, yes, it is a positive fact. Sweet Houdini soon be coming back. Un misto di musica klezmer in questa compilation, ma anche di musica nera, come avete sentito, come state sentendo in questa canzone interpretata da tal Wilmot Houdini o Houdini, e che praticamente è un calypso che arriva su per giù dalle parti di Trinidad. Siamo arrivati alla fine, sono le 22, tra poco in Noctibus Panis. C'è un'altra versione, che è quella che conoscete, che è stata insomma registrata, remissata dal produttore Stefan Hantel in arte Chantel, quel folletto insomma che fa ballare un po' mezza Europa al suono dei Balcani. A giovedì prossimo. Girls to the booth. And that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. We'll be right back. to the blue. All the young girls to the booth.